meglio la mattina, forse è già pomeriggio, il frigo è semivuoto, c'è un po' di formaggio, la vita va, la vita va. Annuso la camicia, sì, si può ancora portare, devo solo ricordare di non farmi avvicinare. La vita va, la vita va. I libri sopra il tavolo si sono impolverati e l'università mi sa che anche questo semestre aspetterà. Mi butto nel virtuale, lì bisogna lasciarmi stare. In tutti questi anni mi son fatto rispettare. La vita va, la vita va. E la tecnologia sarà la mia risorsa. Presto mi arricchisco con Bitcoin e gioco in borsa. La vita va, la vita va. Ieri sera sono uscito, ho calato un po' di tutto. Vodka, coca, speed, ero brusco ma di brutto. La vita va, la vita va. C'è una tipa che mi ha detto che sono limitato, forse perché ero ubriaco o perché non ci ho provato. La vita va, la vita va. Mi hanno menzionato quelli del locale, nella foto la camicia ha una macchia, una macchia di sudore. Se è già pomeriggio, il frigo è semivuoto, c'è un po' di formaggio.